Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. In che modo gli italiani hanno impegnato le detrazioni fiscali per l'efficienza energetica? Parliamo del ben noto 55% che può essere detratto in 5 anni dalle tasse a fronte di alcuni ben precisi interventi. La riqualificazione globale energetica degli edifici, la coibentazione delle strutture orizzontali e verticali, quindi tetti, pareti e infissi, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con forme più efficienti e l'installazione dei collettori solari, quelli per l'acqua calda. Ebbene, ieri l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, che ha il compito di gestire il 55%, ha presentato la relazione conclusiva sugli usi dell'incentivo nel triennio 2007-2009. Incentivo che è ancora valido quest'anno, il 2010, e continuerà ad esserlo fino alla fine dell'anno, ma che è considerato a rischio, cioè la possibilità che non venga prorogato oltre. Ci facciamo spiegare come andrà data nel 2009, ma soprattutto quali sono le prospettive per il futuro dall'ingegnere Rino Romani, responsabile dell'unità tecnica dell'efficienza energetica dell'ENEA. Buonasera Romani. Buonasera. Ecco, inizierei da alcuni dei numeri principali che emergono dal vostro rapporto. Diciamolo, si tratta comunque di stime non ancora definitive. Per quanto riguarda il numero di interventi realizzati complessivamente, è cambiato poco: 247.000 nel 2008, 236.000 nel 2009. Anche per quanto riguarda la composizione, quindi le tipologie di interventi richiesti, è cambiato poco. Circa il 50% fa riferimento alla sostituzione degli infissi, un 20% ai pannelli solari termici e un 30% riguarda invece la sostituzione degli impianti di riscaldamento. Poca, pochissima richiesta per quanto riguarda invece la coibentazione di pareti e tetti. Ha perfettamente ragione, effettivamente sono questi gli infissi che hanno fatto la parte da leone nel caso della proposta di interventi. Ecco, volevo mettere in evidenza un aspetto: che a fronte di numero di interventi pressoché simile tra il 2008 e il 2009, abbiamo invece una differenza tra gli investimenti sostenuti intorno al 15%, circa 600 milioni di euro di differenza, 3 miliardi e mezzo nel 2008, 2 miliardi e 9 nel 2009. Che però, data la crisi, non è una differenza enorme, tanto che sono in molti a sostenere che gli incentivi abbiano svolto una funzione di ammortizzatore nei confronti di un settore, quello appunto dell'edilizia, per il resto in grande crisi. Ecco, invece, quanto all'energia risparmiata, l'incentivo che cosa ha prodotto nel 2009? Il valore dell'energia, abbiamo delle prime stime, siamo intorno a 1700 gigawattora per il 2009, stima, mentre per il 2008 si parlava di circa 2000 gigawattora come valore consolidato a questo punto. D'accordo. Ecco, senta, uno dei temi di quali si discute molto è appunto se rinnovare, questo ce lo auguriamo un po' tutti, ma se debba essere rinnovato soprattutto così com'è l'incentivo. Una delle obiezioni, per esempio, che si fa è che la sostituzione dei vetri singoli con dei doppi vetri forse non è il caso di incentivarla, un po' perché oggi non si capisce perché uno dovrebbe mettere dei vetri singoli, un po' perché, per esempio, tra le varie tipologie di interventi è quello che costa di più a parità di energia risparmiata. Lei come la pensa? Ma guardi, io penso che tutti gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, specialmente se incentivati, debbono essere quelli che vanno un po' al di sopra di quella che è la cosiddetta media di mercato. Quindi se i doppi vetri dovessero risultare ormai la tecnologia che mediamente è la più diffusa sul mercato nazionale, allora varrebbe la pena incentivare qualche cosa in più, magari il triplo vetro. Un'ultima domanda molto velocemente: c'è qualcuno che suggerisce di invertire il criterio sulla base del quale vengono concessi gli incentivi, cioè non ragionare tanto più su singole tecnologie, il doppio vetro piuttosto che il triplo vetro, magari arriva il quadruplo e non è incentivato perché non è previsto dalla legge, ma, come dire, incentivare per esempio l'aumento di una classe energetica della casa, oppure dire io incentivo tutto ciò che supera un certo valore di efficienza. È più flessibile ma forse meno facile da gestire, lei cosa ne pensa? Mi viene da pensare che con l'ultimo pacchetto degli eco incentivi messi in campo dal governo si andavano proprio a finanziare le cosiddette abitazioni di classe A, o cioè laddove la certificazione energetica metteva in evidenza un consumo al di sotto di una certa soglia. In quel caso si andava a finanziare un intervento complesso, il miglioramento della classe poteva dipendere dall'isolamento delle pareti, dalla sostituzione degli infissi, dall'utilizzo di una pompa di calore o di altre tecnologie. Il 55% è uno, insieme ai certificati bianchi a titolo di efficienza energetica, è il maggiore meccanismo di finanziamento ad oggi per l'efficienza energetica ad oggi in vigore in Italia. Nel caso dei progetti presentati nell'ambito dei titoli di efficienza energetica, questo aspetto è già previsto, si fanno delle proposte a consuntivo laddove varie tecnologie possono essere messe insieme finalizzate ad ottenere delle riduzioni di consumi, di migliorare l'efficienza energetica e così via. Quindi non esclude che un approccio del genere possa funzionare? No, penso di sì, ritengo che possa essere perseguibile. Poi è evidente che quando si parla di miglioramento di efficienza energetica bisogna prendere in esame una vasta casistica di situazioni che potrebbero venirsi a creare, certo. Da una parte potrebbe essere utile, dall'altra parte invece non potrebbe essere utile. Potrebbe essere almeno quantomeno più complicato. Va bene, grazie Romani. Più complicato. Prego, buona serata. Questo è tutto, domani parliamo dell'Agenzia per l'Energia di Modena che sta sperimentando gruppi di acquisto per pannelli fotovoltaici. Buona serata.